Ciao a tutti, sono Carlo Sant'Agostino e molti di voi mi conoscono, faccio parte dello staff di Runtime ormai da diversi anni, anche se non sono stato uno dei primi. Come sono arrivato a fare podcast? Quando ho iniziato a collaborare, un bel giorno Simone Pizzi mi scrisse se volevo partecipare a una trasmissione podcast che faceva insieme ad Alex Racuglia e altri mitici scalmanati che poi ho imparato a conoscere negli anni, e mi chiede se voglio partecipare a una puntata come ospite in quanto rappresentante della vecchia guardia dell'editoria videoludica. Quando scrivevo su Vegas Machine e Zap, per intenderci, nel Paleolitico inferiore. E questa puntata si intitolava L'editoria al tempo dei fosfori verdi, che poi cosa c'entrano i fosfori verdi, comunque fa niente. E quindi mi chiama per parlare in questa puntata. E niente, la puntata la potete anche cercare, credo si trovi ancora online da qualche parte, della vecchia edizione, della prima edizione di Archeologia Videoludica, e non so, piacque abbastanza, presumo, credo, tanto che la puntata, dopo la puntata, mi contattò un altro collaboratore dell'epoca di Pizzi e compagnia, che all'epoca non si chiamava Runtime, ma si chiamava Italian Podcast Network, IPN, e la versione beta di Runtime della radio che ascoltiamo oggi. E Stefano Paganini mi chiama e mi dice: senti, io ho un'idea. Stefano mi conosceva già, ci conoscevamo già, perché scrivevamo tutte e due su per il gruppo editoriale Jackson su Amiga Magazine. E mi dice: ho un'idea, facciamo una trasmissione dove parliamo della storia dell'informatica, non della storia del videogioco, ma proprio della storia dell'informatica, partendo dalle origini e parlando in maniera cronologica o più o meno cronologica dei vari avvenimenti. Io ero già appassionato di storia dell'informatica. All'epoca iniziavo a partecipare e organizzavo delle prime manifestazioni riguardanti la storia dell'informatica, la storia del videogioco, e accetto molto volentieri, ovviamente, pur non avendo nessuna competenza pratica nel fare radio o nel fare podcast, anche se ascoltavo molta radio, ho sempre ascoltato moltissima radio, la radio è sempre stata una mia compagna di vita, un media che ho sempre amato più, e forse più di altri, più della televisione, più di altri media. Niente, iniziamo a fare archeologia informatica. Archeologia informatica, all'inizio Pizzi ovviamente mi deve un po' menare, giustamente, perché non conoscevo bene le regole e quindi tendevo, diciamo, a parlare un pochino troppo, cosa che poi attualmente veramente, anche se mi limito rispetto agli inizi, faccio ancora parecchio. E la trasmissione ha successo, diventa una trasmissione che ha un certo seguito. Iniziamo a fare una stagione, due stagioni, tre stagioni. Purtroppo Stefano, come sapete, negli ultimi tempi, per problemi suoi personali, non ha più potuto seguire così costantemente la realizzazione della trasmissione, quindi, essendo lui quello che si occupava di gestire gli asset, insomma, di far partire, diciamo, le trasmissioni, poi io arrivo e parlo, c'è stato un piccolo, diciamo, un annetto di stop, ma poi è arrivato il mitico Davide Gatti, che è entrato anche lui a far parte della grande famiglia di Runtime, e grazie a lui siamo riusciti a riprendere in mano la trasmissione e a ricominciare a farla. Quindi cosa mi aspetto dal fatto che runtime diventi una radio, beh, innanzitutto è un passaggio, secondo me, ma anche secondo tutti, naturale, un'evoluzione che, come dice Simone, arriva da un'esperienza ormai di tantissimi anni nel fare il podcast, e il fatto che si trasformino i podcast in trasmissioni in una radio che sarà, si spera, sempre in broadcasting, è qualcosa che un atto dovuto, diciamo. E io ho delle idee, ovviamente, adesso non è che ne ho parlato tanto anche con Simone e gli altri, però credo che sia anche giunto il momento, visto che ormai ho preso una certa esperienza anch'io nel fare il podcast, nel fare queste trasmissioni, di fare forse una prima trasmissione dove mi arrangio. Che idea ho? Ho un'idea. Potrebbe essere una trasmissione che parli del fatto che a me piace comunque parlare del passato. Il passato mi appassiona, la storia mi appassiona, l'interpretazione della storia mi appassiona, ma una storia non così storica, diciamo qualcosa del passato recente, e che non sia necessariamente legato ai computer e ai videogiochi. Potrebbe essere un blast from the past, l'angolo del Carlo, dove parlo di cose nerdose, del mio passato nerdoso, che possono essere anche musica, giocattoli, cartoni animati, fumetti, film, telefilm, tutto quello che ho vissuto nel mio passato e che comunque ha fatto la storia del mondo moderno, attuale, nel quale ci ritroviamo. Ma soprattutto in questa trasmissione mi piacerebbe magari avere la libertà di blastare tutto e tutti, finalmente. Va bene, dai, ci sentiamo presto, ciao.